A tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti. Dunque, vincono tutte e non cambia nulla in testa alla classifica. Vince l'Inter 3-0 sul Bologna, dominando la partita fin dal primo minuto, ma è stata la Roma a passare per prima in questo testa a testa a distanza al 19° del primo tempo. Il gol di Vucinic su splendida verticalizzazione di Toni, oggi tutti e tre insieme, Totti, Toni e Vucinic. Roma che ha fatto quello che doveva, che forse avrebbe dovuto chiudere la partita nel secondo tempo senza rischiare nulla. Per 10 minuti i giallorossi sono stati in testa alla classifica, perché l'Inter, pur costruendo una quantità industriale di tiri in porta e di palle gol, è riuscita a passare soltanto al 29° il gol di Thiago Motta, grande protagonista, goleador di giornata. Tra i goleador nel tabellino c'è anche, come avete sentito prima nel giornale radio, Mario Balotelli, che è tornato a giocare, ha giocato tutti i 90 minuti, ha segnato al 7° della ripresa su un magnifico lancio di esterno di Milito, oggi in versione rifinitore, lancio in diagonale a tagliare la difesa del Bologna, e il piatto piuttosto semplice di Balotelli, che dunque torna a segnare. Terzo gol di Thiago Motta nel finale 40° dopo un triangolo con Stankovic. Inter sul velluto senza alcun problema contro il Bologna. Vince anche il Milan in una gara a tratti anche un po' comica contro il Cagliari. Succede tutto nel primo tempo. Al 7° passa il Milan con un triangolo Borriello-Seedorf, chiuso dallo stesso Borriello, che dunque torna a segnare. Al 17° il tocco di Conti per Ragazzo, solissimo a centro area, difesa del Milan piazzata molto male in questa circostanza. 1-1, 2 minuti dopo un missile di sinistro da 30 metri di Huntelaar per il gol del 2-1, anche questo gol molto bello, anche se i miei preferiti di giornata, ve lo dico subito, sono quelli dell'1-1 tra Lazio e Napoli. Al 32° Kossu serve Matri, azione di contropiede, Matri sulla sinistra segna sull'uscita di Dida, anche in questo caso palla persa a centrocampo dal rientrante Pirlo, rientravano Pirlo e Ronaldinho dopo la squalifica, e difesa del Milan piazzata pure molto male. Terzo episodio, forse il più comico di tutti, anzi quinto episodio, il più comico di tutti, al 38° cross da destra basso di Abate, Marchetti e Astori pasticciano da non dirsi ed è autorete ed è quella decisiva per il 3-2 del Milan a Cagliari. Milan che dunque rimane in scia. Per quanto riguarda le altre partite, c'era un confronto diretto salvezza, dentro o fuori, Atalanta-Siena, resta dentro la lotta salvezza l'Atalanta che vince 2-0 con un altro gol molto bello, 16° del primo tempo, un destro in corsa da 25 metri di Valdés, palo rete, gol molto, tiro molto bello, molto preciso, molto potente. Poi al 25° della ripresa, su un'azione derivante dal calcio di punizione di Guarente, Manfredini prolunga di testa, colpo di testa vincente di Ferreira Pinto. Quindi la Sampdoria vince a Verona con il Chievo, rimane in piena corsa per il quarto posto, anzi in questo momento aggancia il Palermo, che giocherà al derby di Sicilia alle 19. Come sapete, stasera programma completato da Udinese e Juventus. Sampdoria che sbriga dunque la pratica a Chievo al primo minuto. Cassano segna il più facile dei suoi 6 gol in campionato, probabilmente a porta vuota, dopo un'azione piuttosto confusa. Dopo un minuto c'è un episodio nell'area del Chievo. Sorrentino esce su Semioli, sembra un calcio di rigore netto. Gava prima lo concede, poi ritratta. Niente calcio di rigore su segnalazione del guardaline. E si continua a giocare sull'1-0 per la Sampdoria. Al 10° della ripresa segna anche Pazzini il gol del 2-0. Poi al 31° Mantovani accorcia le distanze dopo che era stato espulso al 24° il clivense Moreiro. 1-1 tra Genova e Livorno alla vigilia del derby, che si giocherà derby della Lanterna, che si giocherà tra una settimana. Compare per la prima volta nei tabellini italiani un giovane ghanese di 19 anni, Boakye, che debutta con il Genoa e segna al 6° minuto della ripresa, stop di petto e girata. 43° il gol di Tavano per l'1-1. Come detto, i gol più belli della giornata, quelli dell'Olimpico in Lazio-Napoli. Al 3° cross da sinistra di Mauri, molto teso, e colpo di testa in stacco perfetto da parte di Floccari. Al 38° taglio da sinistra verso destra di Quagliarella per Amsic, che brucia Muslera con un pallonetto meraviglioso, in posizione molto defilata, peraltro gol molto difficile quello di Amsic, nonché bellissimo. Parma-Fiorentina finisce 1-1, al 22esimo segna De Silvestri il primo gol in Serie A per lui su un assist di Jovetic, al 23esimo Donadel e Kroldrup, ventitresimo della ripresa, Donadel e Kroldrup si incartano su un pallone che finisce tra i piedi di Bojinov. Facile il gol dell'1-1 finale. Queste così dunque le partite del pomeriggio, però sta per parlare con Sky Ranieri. Potete parlare anche voi naturalmente come ogni volta. 800240024 numero verde. Messaggi 349-238-6666. È il sabato del campionato. Ranieri. Entro, per cui non sta al 100%. Si è sacrificato in un buon lavoro di raccordo. Anche Vucinic aveva avuto 2 giorni di febbre, per cui sono molto contento di quello che hanno potuto fare. Chiedo un'ultima cosa, perché per 10 minuti la Roma è stata in testa al campionato prima che l'Inter sbloccasse il risultato. Sono le prove generali in queste 6 partite che mancano alla fine del campionato? No, non c'è nessuna prova generale. Noi dobbiamo continuare a cercare di giocare partita per partita, cercando di vincerla. Oggi non era facile. Buon per noi che abbiamo appunto saputo approfittare di una splendida opportunità che ci siamo creati. Ma poi la partita è stata difficile, perché con quelle 4 punte lì del Bari, che tra Alvarez, Camatà, Rivas, insomma, ti mettono sempre in grossa difficoltà. Fabio. Allegri, no, si stava liberando Allegri, volevo fare... È ai microfoni anche Max Allegri per commentare questa stramba sconfitta del suo Cagliari. Cagliari in lunga striscia positiva, in un momento di riflessione, di evidente fase di demotivazione, insomma, al Cagliari, mettiamola così. Classifica dunque: Inter 66, Roma 65, Milan 63, nulla cambia là davanti. Poi Palermo e Sampdoria 51, vediamo cosa fa il Palermo nel derby di Sicilia. Napoli 49, la Juventus che avrebbe la possibilità quantomeno di agganciare la Sampdoria, ma deve vincere a Udine. La Juventus che ha 48 punti, Fiorentina-Genoa 45, secondo me tagliate fuori dalla lotta per la Champions. Bari-Parma 43, Cagliari 40, Chievo 38, Catania-Bologna 35, Lazio 34, Udinese 32, attenzione Udinese, perché c'è l'Atalanta a questo punto che preme, ha un solo punto di distacco dai friulani, 31 punti, anche se l'Atalanta nel prossimo turno andrà sul campo della Roma, della Lupa Famelica. Siena e Livorno 26, secondo me retrocesse o quasi, insomma, al di là del fatto che ovviamente non lo sono ancora, ci mancherebbe altro per la matematica. A tempo di sport. Nuovo Ranieri con Sky. Che una partita va storta perché gli altri saranno più bravi di noi, ma non abbiamo cali atletici, la squadra sta bene, sta molto bene, per cui ce la dobbiamo giocare, l'ho detto, si è aperto un portone inimmaginabile mesi fa e adesso senza rimpianti, a lottare su ogni palla. Allegri, per nel salutarti, chi è... Così dunque Ranieri, ma c'è anche Allegri. Veramente in questo momento insieme all'Inter sono quelle due più favorite, il Milan 3 punti indietro, sicuramente un pochino più sfavorite. E ecco. Non ti è piaciuto tantissimo oggi magari? No, ma giocare contro lui non è mai facile. Oggi i ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo regalato. Il Milan è una squadra tecnica, quindi quando hanno possesso palla sicuramente ti mettono in difficoltà. E noi quando l'avevamo noi siamo riusciti a creare molte palle gol, non siamo riusciti a sfruttarle. Allegri, mi scusi. Qui è stata la differenza. Allegri, sono 5 sconfitte in 7 partite. 5 sconfitte in 7 partite, Cagliari come detto in momento di appagamento evidente. E Milan, ma la domanda era pertinente, Milan oggi che non ha convinto neanche un po', al di là dei 3 gol fatti tutti nel primo tempo, al di là di del più bello che poteva arrivare su un'azione meravigliosa con un colpo sotto di Ronaldinho a servire la corsa di Borriello, il sinistro al volo di Borriello alto di un palmo sulla traversa, sarebbe stato un gol fantastico. Però Milan poco convincente soprattutto in fase difensiva, e anche un centrocampo che con Pirlo molto in ombra, poi sostituito, un centrocampo che non ha mai convinto, mi pare. Tra le altre tre spigolature di giornata, che poi spigolatura non lo sono neanche un po', c'è la vittoria del, c'è una partita scudetto, la partita del titolo, mettiamola così, non c'è lo scudetto in Inghilterra, però partita fondamentale in testa alla classifica, il confronto diretto tra il Manchester United ed il Chelsea di Carletto Ancelotti. Mi fa molto piacere dirvi che Ancelotti ha vinto a Old Trafford 2-1. Il risultato ha scavalcato il Manchester United, che precedeva i Blues di un punto in classifica, e adesso il Chelsea è a più due. Poi c'è anche, ma magari ne parliamo più tardi con calma, la griglia di partenza dalla Malesia, con la Ferrari che ha sbagliato tutti i conti relativi all'ingresso in pista con il diluvio, sotto il diluvio malese, e domani alle Ferrari toccherà rincorrere di brutto, perché Alonso è in decima fila con il 19° tempo, accanto a Lewis Hamilton, che pure ha sbagliato i conti esattamente come la rossa, 11° fila per Massa invece. Massimo Callegari, buongiorno. Ciao, buona domenica, buon sabato a tutti. Buon sabato Massimo. L'Inter non fa sconti, gioca Balotelli, segna Balotelli, la Roma sta in testa alla classifica, 10 minuti di prassi, perché ha sbloccato a Bari, però insomma l'Inter ha sempre tenuto in mano questa partita, ha dato una risposta in campionato. Ieri Mourinho ha detto: siamo stanchi, squalificati, soli, infortunati, però insomma mi sembra un Inter ancora molto in salute. Sì, sì, soprattutto rimane l'impressione, no, di cui avevamo parlato la settimana scorsa, ovvero di finali di partita anche dopo gli impegni di Champions a Palermo, a Roma, in crescendo dal punto di vista fisico, quindi che lo stress potesse essere più mentale che fisico. Oggi il recupero di Balotelli sicuramente è servito anche per dare un po' di serenità, perché probabilmente tutta la squadra, al di là dei discrezzi che ci sono stati, sa che è un giocatore che può dare molto per il suo valore in questa volata finale, quindi l'impressione è stata positiva. Era l'avversario, quello dell'Inter oggi, non più temibile dal punto di vista tecnico, però dei tre era quello che aveva più da giocarsi in campionato, e siccome adesso iniziano le partite con uno o due cartellini gialli in tutto, questo è quello che fa la differenza, no, del valore tecnico degli avversari. Anche per questo probabilmente le prossime tre giornate saranno veramente decisive, perché l'Inter va a Firenze alla Juve, il Milan al Catania e poi alla Samp, il Palermo in trasferta, e la Roma domenica ospita l'Atalanta, poi il derby e la Sampdoria. Quindi queste tre giornate sono tutte con avversari motivatissime, e qui si decide moltissimo nel campionato. Certo. Milan rimane formalmente in corsa, ma comunque non dà mai seriamente l'impressione di essere in corsa sul serio per lo scudetto, anche se ho qualche ascoltatore che esagera. Ad esempio c'è un Max che scrive: nonostante abbia vinto molto male, il Milan non arriverà tra le prime tre, scommetto un Barolo. Max, piano con i Baroli, perché insomma basta dare un'occhiata alla classifica, mi sembra complicato che il Milan non arrivi tra le prime tre, avendo attualmente 12 punti di vantaggio sul Palermo, che d'accordo deve ancora giocare, ma sono una montagna di punti di vantaggio. Non credo proprio che il Milan finirà per crollare. A proposito di Milan, vedo che è pronto a parlare anche Leonardo, sentiamo che cosa ha da dire. Abbiamo a Sky un po' di energie emotive, sbaglio? Sinceramente sì, sinceramente mi ha portato via, forse è una delle partite che ho più sofferto, così io di solito sono molto tranquillo, ma sinceramente questa partita qua è stata faticosa, ma non solo per come avevamo giocato, credo che è stata faticosa, diciamo, come si è presentata prima, che è stato un primo tempo straordinario, e anche quando fai bene sicuramente cerchi l'equilibrio, cerchi di vedere come può andare la partita, quale sarebbe stato lo sviluppo, no? Che non puoi mai prevedere, principalmente con due squadre che stanno giocando in questo modo, e noi molto bene. Secondo tempo il tentativo fosse di gestire, no, la partita, perché ogni volta che andavamo in vantaggio facevamo fatica a chiudere, perché mi spingeva un po' di più il Cagliari, per quello è stata una partita che ho dovuto pensare troppo, no? Anche troppo forse, davvero, però sono molto felice, perché era difficile, ci voleva coraggio di questa squadra di presentarsi in questo modo, che è un modulo di giocare che a noi piace, però qualche volta non puoi proporre. Oggi un po' forzato siamo riusciti a fare veramente un grande primo tempo e una vittoria importantissima. Pazzesco il gol di Huntelaar, no, più lo rivedo più mi rendo conto, è stato un tiro pazzesco in corsa, ha ricevuto palla da Borriello due passi dopo la metà campo, due passi in corsa sinistro, palla all'incrocio dei pali, gol di molto bello, molto spettacolare. Massimo, il Milan è in corsa? Vabbè, certo, per la classifica sì. Formalmente. Ripeto, No, beh, anche nella sostanza, nel senso che fino adesso, ripeto, mancano 6 giornate alla fine, quindi non si può contestare l'andamento del campionato, anche se ci sono state delle situazioni in cui il Milan ha ottenuto più di quanto meritasse, questo è stato acclarato, però alla fine adesso le squadre sono qui e in 6 partite i fattori oggettivi e le situazioni prevedibili sono molto più sfumate rispetto a tanti altri aspetti, però è anche vero che pur essendo in corsa formalmente o meno come lo vogliamo dire, Milan delle volte vince delle partite in una maniera quasi mistica, paranormale, no? Nel senso che concede tanto agli avversari, oppure gli avversari sembrano concedere delle situazioni che Milan riesce a sfruttare, però è lì, le sue caratteristiche sono queste, è lì senza Nesta, senza Pato, ha fatto il massimo possibile, probabilmente anche di più rispetto a quello che era nelle sue potenzialità. Adesso è il calendario più difficile di tutte, perché deve affrontare Palermo, Fiorentina, Sampdoria, Juventus alla fine, e allo stato attuale è difficile pensare che la Juve quel giorno sarà tranquilla e sicura di quello che avrà ottenuto, che ha ottenuto da qui alla fine, per cui è più indietro delle altre ed è meno favorito della Roma e dell'Inter, però è ancora in corsa, quindi cioè, dal punto di vista del Milan sarebbe folle non pensare di esserlo, poi certo. Dopo chiaramente l'analisi esterna può essere su altri fattori anche meno formali, come li chiami tu. Primo ascoltatore di oggi, Antonio da Caserta, buongiorno. Buongiorno a lei. E niente, praticamente volevo parlare appunto del Milan. Cioè sì. Le potenzialità della squadra sono queste. Noi praticamente non facciamo mercato da 2-3 anni, forse anche di più. L'ultimo mercato buono me lo ricordo nel 2005. E quindi la squadra è questa. Diciamo è rimasta la forza a livello sicuramente dirigenziale di trarre comunque dal minimo comunque il massimo. Sì. Però sì, voglio dire come squadra non può arrivare oltre. Cioè, se no, no, scudetto, no, no. Sarebbe peggio secondo me del campionato 1997-98, saremmo a quei livelli. Secondo me, lo dico da milanista. Sì, sì, no, ma non c'è dubbio, cioè, il Milan sta facendo un campionato che ha del miracoloso, l'ho già detto molte volte, il Milan non è una squadra, ripeto, secondo me competitiva né sul fronte interno né tantomeno su quello internazionale, competitiva al massimo livello e sta facendo più di quanto ci si potesse aspettare. C'è chi chiede notizie dal big match di Londra, l'ho già detto, non si giocava a Londra ma a Old Trafford, a Manchester, da cui Ancelotti una volta ha portato una Coppa dei Campioni, qualcuno se lo ricorderà ancora, anzi molti se lo ricorderanno ancora, io immagino. Il Chelsea ha vinto sul campo del Manchester United 2-1, gol di Joe Cole al 20esimo, di Drogba al 79esimo. E c'è anche un altro pizzico d'Italia, perché il gol del 2-1 per il Manchester United lo ha segnato Makeda, che è italiano. Massimo, la Roma, come la vedi? C'è un ascoltatore che scrive: problema del Milan è il calendario, della Roma l'ambiente, dell'Inter la Champions. No, è vero, è verissimo, perché chi era a Roma sabato scorso mi ha raccontato delle cose sovrumane, tipo? Di caroselli, cose tipo? Pazzesche, insomma. E quindi è vero, però è anche vero che ad esempio la Roma recupera non ancora al 100%, forse solo per le ultime 6 partite lo sarà, però recupera un giocatore che per lei è molto importante, che è Totti, che oggi credo, perché comunque come la maggior parte di noi ho visto le partite con le immagini alternate, quindi i giudizi sono sempre parziali, però credo che oggi si sia messo comunque a disposizione in un ruolo che è diverso da quello in cui ha giocato per tanti anni. Sì. C'è grande entusiasmo, l'ambiente può dare entusiasmo eccessivo, però quando c'è entusiasmo è sempre meglio di quando c'è depressione. E c'è poi il derby che sarà decisivo al 90% per la Roma da tutti i punti di vista fra 2 settimane. Sì, non è una grandissima cosa quella, perché al di là dei problemi di classifica della Lazio, che comunque è ripresa, perché oggi ha giocato un eccellente primo tempo contro il Napoli, poi dopo il gol del pareggio napoletano si è un po' accontentata, ma come era prevedibile, la Lazio è ripresa. E poi sai, in ambiente laziale e al di là delle preoccupazioni di classifica, l'idea di fare un dispetto alla Roma può essere una tentazione troppo forte, no? Sì, sì. No, l'unica cosa è che anche oggi nel secondo tempo la Roma ha concesso qualche occasione di troppo agli avversari. Non ha subito gol e questo è importante per il suo score difensivo, che negli ultimi tempi, a differenza della linea generale con Ranieri, non era stato così rassicurante. Però, insomma, anche domenica c'è la partita con l'Atalanta, è un campionato apertissimo e dal punto di vista psicofisico Inter e Roma devono stare bene, il Milan è una squadra molto più difficile da decifrare, però sono tutte lì e anche oggi è passata una giornata in più, la situazione non è cambiata, quindi è una giornata, come dici tu, formalmente favorevole all'Inter alla fine, sì. Anche se non era la più decisiva per gli impegni delle tre squadre. Naturalmente giornata di transizione in cui si trattava di rispettare il ruolino di marcia, tutte e tre l'hanno rispettato. È finita anche un'altra partita molto importante in Germania, perché oggi era giorno dei big match, c'era prima contro seconda anche nella Bundesliga e curiosamente è finita con lo stesso punteggio, cioè con la vittoria della squadra in trasferta, Bayern Monaco che vince 2-1 sul campo dello Schalke 04 a Gelsenkirchen. Curiosamente anche l'andamento dei gol è analogo a quello della sfida di Old Trafford, cioè doppio vantaggio per il Bayern, 25esimo e 26esimo, Ribéry e Müller e poi Kurani al 31esimo, tutto nel primo tempo in questa partita, Bayern che vince in trasferta dunque. Prima di salutare Massimo Calegari parliamo anche con Ilario da Roma, vi ricordo il contatto 800240024, numero verde, Ilario. Sì, buonasera. Buonasera. Senta, io farei un'osservazione un po', diciamo, collegandomi all'intervento del radioascoltatore di prima. In realtà se il Milan avesse sfruttato queste due o tre occasioni passate, si sarebbe trovato effettivamente primo. Io ritengo il Milan una squadra, sono tifoso milanista, non più che discreta, per cui mi sembra che pensare al Milan capolista vuol dire che un po' il campionato nostro non è più che discreto, forse, se mi permetta questo tipo No, questo è corretto, questo è corretto, Ilario, però in quel se che lei ha pronunciato all'inizio sta tutta la differenza del mondo, perché una squadra che è veramente da corsa per il titolo, quel se lo cancella, cioè quelle partite le vince, no? Vince con il Napoli, vince con la Lazio, mentre è un Milan che veramente dà l'impressione di rincorrere due avversarie che vanno più forte con la lingua fuori, mettendoci tutto quello che ha, con grandi problemi di organico, però mi sembra una corsa impari tra le due che davvero lottano per lo scudetto e, parentesi, io continuo a pensare che alla fine lo vincerà l'Inter anche perché, per paradosso, non ripeto, anche la giornata di oggi conferma come non ci siano grandi segni di cedimento neanche dal punto di vista fisico nella squadra di Mourinho. Poi è chiaro che vale l'osservazione di Davide, il problema della Roma è l'ambiente, dell'Inter la Champions League, questo è vero. Massimo. Sì, no, per chiudere, la cosa che mi colpisce di più, e ormai insomma è un po' che sentiamo questi interventi, vediamo anche le presenze allo stadio della gente, è che i più scettici, meno fiduciosi e meno entusiasti di questa stagione sono i tifosi del Milan, perché sicuramente erano abituati diversamente, perché sicuramente sono preoccupati anche dalle prospettive future e non vedono solo da qui alla fine della stagione, perché si rendono conto delle potenzialità della loro squadra, che sta facendo comunque moltissimo, però è molto curiosa questa cosa, nel senso che l'ambiente invece di cogliere dai risultati comunque quella carica ulteriore che servirebbe, tutti sono molto oggettivi, a volte anche troppo per essere tifosi, e non hanno fiducia nel Milan. Prima di salutarvi, oltre di voi di buona Pasqua, mi permetto solo 10 secondi di mandare l'ultimo saluto a Maurizio Mosca, perché insomma io sono molto più giovane di quanto è stato lui, e quando sono arrivato a Melli è stato fantastico con me, per come si è comportato e per come si è dedicato a me, pur potendo fare tranquillamente a meno di dedicarsi a un ragazzo molto giovane, quindi insomma non lo saluto con grandissimo affetto. Hai fatto molto bene, grazie Massimo, buona Pasqua. Grazie, anche a voi, grazie. A tempo di sport. Giampiero Ventura con Sky. Ho sentito adesso che ha fatto una buonissima partita, le ultime non erano forse così buone, quindi sotto questo aspetto credo che forse la Roma, che se recupera anche Totti della condizione dal punto di vista qualitativo, è tanta roba. Oggi che le è sembrato di Totti che era rientro dal primo minuto? Oggi faceva caldo, quindi chiaro che la qualità è la solita, però chiaramente non è che abbia inciso più di tanto, però ripeto, era un rientro dopo tanto tempo in una giornata caldissima e contro una squadra che ha concesso obiettivamente poco, che eravamo noi, quindi sotto questo aspetto non era una partita facile per rientrare, secondo me. Io ho sempre l'impressione che la Roma si sia, come dicevo esattamente una settimana fa parlando con Carletto Mazzone, ho l'impressione che questa Roma si sia emancipata da Francesco Totti, che quindi in questo contesto può fare un ruolo per lui nuovo, soltanto quello del giocatore, non più quello del parafulmine, della balia, dell'uomo squadra, dell'uomo indispensabile, eccetera. Questo è un ulteriore valore aggiunto di questa Roma. Saluto e ringrazio Fabio Monti, inviato del Corriere della Sera. Ciao Fabio. Eccoci, buonasera a tutti, ciao. Inter che continua a sembrarmi una squadra estremamente in salute, Fabio. Sì, sì, direi che oggi è stata veramente una buona prova, non so se favorita dal clima particolarmente fresco, anche troppo. Comunque l'Inter ha dimostrato di essere ancora molto, molto torica, forse ha scollinato il periodo di maggiore difficoltà e mi pare che adesso ha ripreso a correre anche molto bene, è stata una partita di grande maturità. Finalmente è finita la storia di Balotelli, non se ne poteva onestamente più, da qui a giugno farà il giocatore dell'Inter, sempre che non succeda nient'altro, poi vedremo. Oggi premuto da Mourinho, ma come anche logico per tutta la partita, ha ritrovato il gol. Insomma, è un giocatore in più nella rotazione dell'Inter e anche numericamente se ne sentiva il bisogno, io credo, l'Inter, no? Io personalmente avrei fatto finire la cosa, che non ho ancora ben capito in quali contorni si sia svolta, l'avrei fatta finire dopo la partita col Chelsea, proprio perché è un momento in cui c'è bisogno di tutti. Certo. Balotelli è un talento vero, è un grandissimo giocatore, io spero che la sua maturità possa essere completa nei prossimi tempi. Non dimentichiamo che a 19 anni se sbaglia qualcosa, come sbagliano tutti, è giusto tirargli le orecchie, come è giusto tirarli a tutti, però secondo me è stato un castigo eccessivo che non ha fatto bene alla squadra. Forse avrà fatto bene a dei principi, non lo so, ma sicuramente non ha fatto bene alla squadra. Fabio, inutile nascondere che il sottofondo di questa giornata è quello di altri echi, no? Che escono oggi dalle pagine dei giornali, che escono dalla Procura di Napoli, che escono dai difensori di Moggi, dalle parole dalla bocca di Moratti sono uscite invece queste parole: è una vergogna, ha detto il presidente dell'Inter, si sta tentando un ribaltamento della realtà che offende, che non ci lascia indifferenti, capisco che ci si debba difendere, ma si tratta di una vicenda brutta e vergognosa. Chiedo solo una cosa molto semplice: perché solo oggi e con questo ritardo compaiono sui giornali queste intercettazioni, queste conversazioni? Perché mi pare che la linea sia chiara, far vedere che tutti facevano le stesse cose e che quindi nessuno è colpevole, sono tutti innocenti. Il problema è che non tutti facevano le stesse cose, perché tra la telefonata che ha fatto Bergamo a Moratti, non Moratti a Bergamo, ma Bergamo a Moratti, e le telefonate e il comportamento di Moggi, mi pare che in mezzo ci sia l'Oceano Pacifico e forse anche qualcosa di più largo. Sì, quindi bisognerebbe anche un pochino farla finita con questa storia, però poi se vogliono continuare, continueranno. Io ho l'impressione che continueranno, Fabio, continueranno perché insomma viviamo in un paese che si guarda costantemente alle spalle, no? Ed è difficile far finta di niente. Certo è che è chiaro che si alza del fumo, no? Tutti facevano la stessa cosa, tutti parlavano con tutti secondo un mal costume, su questo siamo d'accordo, che è evidente e che vale per tutti. Sì, sì, no, ma per dire soltanto un particolare, un giorno prima c'è un'intercettazione di una telefonata fra Bergamo e Moggi in cui si parla di una tessera di un'utenza straniera, eccetera. Sì. Quindi è evidente che Bergamo già sapeva che era stato intercettato, e quindi non escludo che un certo tipo di telefonate l'avesse fatto anche per cercare di allargare il cerchio nel caso in cui fosse successo qualcosa, fossero stati scoperti. E un altro piccolo particolare, ma proprio per dire come in questo momento queste accuse veramente siano prive di fondamento, si parla di Moratti che poi dice: poi si passerò negli spogliatoi a salutarlo. Quel giorno di Moratti non è andato neanche a Bologna, come non gli capita mai di andare in trasferta, e nemmeno Facchetti quel giorno lì era presente. Grazie Fabio, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a Fabio Monti, sta parlando con Sky. Beh, la voce dell'Inter oggi è quella di Cambiasso, come sapete Mourinho è sempre muto. Cambiasso. Beh, dentro di Cristian sicuramente che ci dà una soluzione in più, al di là di quello che vuol dire a livello psicologico, perché dopo quello che è stata la sua botta in testa, la sofferenza per tutto lo spogliatoio, sapere che è lì e che è ancora ai grandi livelli, per noi è una cosa molto bella. Poi credo che questa squadra ha le possibilità di anche con mancanze importanti riuscire a far bene. Oggi è stata una dimostrazione perché avevamo tanti squalificati tutti di un colpo e siamo riusciti a fare una grande gara. Mario? Questo è Cambiasso. Lorenzo da Milano invece è in linea, 800 24 00 24 numero verde, buongiorno. Lorenzo? Pronto? Buonasera Lorenzo. Buonasera. Senta, un attimo di cosa, ti telefonavo per questo. Mi è capitato più volte di sentire lei, quando qualcuno telefonava sì, per il problema di Calciopoli, sì, dire... non ne parliamo più perché non ci sono novità, non c'è niente che, di cui parlare. Sì. Ci sono novità? Sì, come no? Sono novità. Ci sono novità, ovviamente da prendere per come sono venute, no? Sì, beh, certo. Certo, però guardi che io non ho cambiato la mia idea. La mia idea è quella che... gli amministrati non dovrebbero parlare con gli amministratori, che gli avvocati di parte non dovrebbero parlare con i giudici del processo. No, non l'ho cambiata, la mia idea è sempre la stessa. Mi domando, poi si può valutare anche il contenuto di queste intercettazioni, che non mi sembra nella sostanza non mi sembrano un granché, però vale quanto ho detto prima, e cioè mi devono spiegare perché non le abbiamo lette nel 2006. Proprio quello lì il grave, cioè, allora sì, se posso permettermi, credo che questo sia il punto. Perché non l'abbiamo letto? Non mi possono dire perché non sono rilevanti, perché di intercettazioni non rilevanti ne abbiamo letto una montagna, è no? È proprio per quello, cioè, allora, non sono rilevanti e sono rilevantissime secondo me, ma non per tanto per quello che si dicono, cioè si capisce lontano un chilometro che Bergamo e Moratti si parlavano e con Facchetti. Con il povero Facchetti, si parlavano con una frequentazione la stessa che io ho letto nelle dichiarazioni di Moggi, per esempio, la stessa che io attenzione, sì, però poi lì andiamo a vedere la sostanza. Non parliamo la sostanza, se ti dice gli arbitri che ci sono in Coppa Italia, ti mando questo, ti mando l'altro, incontro prima quello, incontro prima l'altro, cioè la differenza io non ne vedo molta, anzi. Beh, cioè, adesso in queste conversazioni in tutta franchezza non c'è molto, però non avrebbero dovuto parlarsi secondo me, perché da un punto di vista morale, sportivo, come volete voi, non avrebbero dovuto esserci queste frequentazioni. C'erano queste frequentazioni, magari poi ne emergono delle altre compromettenti, non lo so, perché a questo punto francamente non lo so. È chiaro che da una parte, che è quella di Moggi, si cerca di alzare il polverone, no? Ma in un disegno fin troppo logico, cioè lo facevano tutti, non avrebbero dovuto farlo. Mi sembra, tra parentesi, alla luce di tutto questo, abbastanza fuori luogo la letta con insieme a queste intercettazioni, e quindi con troppa distanza temporale, molto fuori luogo tutta quella retorica che è stata fatta sullo scudetto degli onesti e quegli gli smoking bianchi ad alzare il trofeo vinto poi sul campo l'anno successivo. Continuo a pensare che il peccato originale sia quel maledetto scudetto tolto alla Juventus, assegnato all'Inter, che secondo me è, per come la vedo io, poi posso sbagliarmi e ognuno ha le sue idee, però non avrebbe dovuto essere assegnato, perché si dice un campionato è stato irregolare, è stato falsato, allora in quel campionato il titolo non si assegna. È chiaro che gli interisti adesso cominceranno a chiamare e ad andare su tutte le furie, però io continuerò a pensarla così, come ho sempre detto. Non si sarebbe dovuto assegnare quel titolo, e punto e basta. Insomma, queste le mie considerazioni così di primo impatto. Insomma, è una vicenda che non so per quanti anni si trascinerà ancora, non so per quanti anni continueremo a guardarci indietro verso questo letamaio. A tempo di sport. Prima di Gianni da Parma, Antonio da Brindisi, Prandelli con Sky. È arrivato in mano proprio il gioco e la partita. Sì, è proprio così, è stato un peccato, però abbiamo trovato un Parma che nel secondo tempo è entrata la squadra in campo con un po' più di coraggio, un po' più di cattiveria vicino all'area di rigore, abbiamo commesso dell'ingenuità, e sicuramente un po' di rammarico c'è, però È un periodo che sto chiedendo ai ragazzi veramente tanti sacrifici, anche oggi ho dovuto fare dei cambi proprio per problemi fisici. Dobbiamo cercare di recuperare un po' più di brillantezza e un po' più di anche tranquillità, perché sei in vantaggio su un campo difficile come quello del Parma, avresti dovuto gestire un po' meglio la situazione, invece mi ha commesso tanti errori, soprattutto su palloni in uscita. E poi volevo chiedere, questo è Prandelli, per fare chiarezza su quanto diceva l'ascoltatore di prima in questa conversazione tra Moratti e Bergamo, è stato il calcio, ma adesso stiamo ovviamente, il calcio ve l'ho giocato, ma stiamo scivolando fatalmente su altri discorsi, come era anche abbastanza scontato. A proposito, domani siamo ancora insieme per un'ora, mi fanno lo sconto, dalle 17 alle 18 ci sarà il Gran Premio, ci sarà lo sport di domani, ci saranno tutti i riflessi di questa domenica e di questi giorni. Ebbene, in questa conversazione, insomma, Moratti non chiede un arbitro, Bergamo lo informa che Gabriele è stato assegnato alla partita di Coppa Italia dell'Inter. Non c'è sorteggio ma designazione, a voi ho mandato Gabriele. Insomma, ripeto, mi sembra che non ci sia molto di rilevante in queste, dal punto di vista sostanziale, in queste conversazioni, che in un mondo logico, ideale, sportivo, non ci sarebbero dovute essere, non sarebbero dovute esistere. Vale la pena ricordare, sempre per la cronaca, che c'è stata anche una sentenza. Io per forma mentis sono abituato a rispettarle, le sentenze, a non discuterle più di tanto. C'è stata una sentenza, quella su Giraudo, del 14 di dicembre scorso, del GUP di Napoli, che ha condannato con rito abbreviato l'ex amministratore delegato della Juventus a 3 anni di reclusione per frode sportiva. Non mi pare che in queste conversazioni sia rintracciabile alcunché di delittuoso in questo momento. Gianni da Parma, mi pare, poi Antonio da Brindisi, Giorgio da Milano, Ivan da Cagliari, poi aggiorniamo la seduta e continuiamo domani. Gianni, buonasera. Volevo però dire una cosa che forse in parte c'entra, ma con la gestione attuale della società. Io Quale? Parlando con altri juventini. Quale società? Juventus? La Juventus, sì. E parlando con altri juventini, quello che rimpiangiamo non sono le telefonate agli arbitri, che proprio non ce ne poteva fregare di meno, ma ci interessava la gestione dello spogliatoio, cosa che oggi come oggi ho sentito un programma televisivo dove un ex allenatore e un ex giocatore hanno chiaramente detto che evidentemente, a parte i problemi tecnici, questa squadra non può essere quella squadra che vediamo, ci saranno delle spaccature incredibili all'interno, quindi a noi ci manca la società. È inutile comprare Diego e 60 milioni di giocatori ogni anno o più e poi ritrovarsi qua a lottare per il quarto posto, è un gioco scadentissimo, sì. E figurarci in giro per l'Italia e per l'Europa. Quello che ci manca proprio è una dirigenza più forte, ma a livello interna, non tanto di politica e cose di questo genere. No, ma non c'è dubbio, sono cose che abbiamo detto mille volte. La Juventus società sta pagando l'inesperienza calcistica dei suoi dirigenti. A mio parere la Juventus ha bisogno anche di un allenatore davvero forte, davvero carismatico, davvero indiscusso ed indiscutibile da parte anche dei giocatori, cosa che negli ultimi anni per una ragione o per l'altra non ha mai avuto, quindi di questo a mio parere la Juventus avrebbe pure estremamente bisogno. Grazie Gianni. Antonio Brindisi. Salve, buonasera. Lei ha detto in pratica nelle telefonate di Moratti, quelle che non c'è, sembra che non ci sia niente di rilevante. Però ricordiamo che comunque la Juve è stata condannata per, cioè la Serie B, senza neanche che sia stato accertato un illecito soltanto, ma una serie di articoli 1 che sì. Non è articolo 6. Se per illecito si intende la singola partita comprata o venduta con la borsa di soldi, no. Però mi sembra che ci fosse quanto necessario e sufficiente, no? Poi si trattava naturalmente di, in quel momento, di graduare delle sanzioni e delle pene per cose che erano emerse, che riguardavano non solo la Juventus, ma come sappiamo bene il Milan, la Lazio e la Fiorentina. Quindi si trattava di graduare delle pene, cosa molto, molto complicata. No? Anche se comunque mi sembrava eccessivo il discorso della Serie B, se non c'è nessun illecito vero e proprio. Comunque anche questo, siccome Moratti, Pacchetti e compagni hanno sempre detto che non avevano mai parlato con i designatori, lo stesso PM a Napoli ad ottobre disse che non c'era nessuna telefonata intercettata, ed è me saltano 100 di Cellino, una decina di Gagliani, una decina di Pacchetti e di Moratti. siccome la Juve è stata condannata, a differenza del Milan, perché Meani non era un dirigente con potere di firma, mentre Giraudo sì, sì. Cioè, qualcosa non va. Siccome ci fu lo scandalo perché Giraudo fece una cena con Bergamo, adesso sì, sì. Che sì, no, ma sì, Antonio, è tutto chiaro, no? È tutto chiaro quanto lei dice. Si trattava comunque di posizioni molto diverse, no? Quella a carico di Moggi era una... insomma l'hanno chiamata cupola, poi non lo so, era una rete molto, molto più fitta, molto più completa e complessa. Rimane il fatto però, al di là di tutto questo, di questi dettagli, di queste cene, di questo potere di firma e tutto quanto, di queste intercettazioni che solo oggi compaiono, rimane il fatto che non mi possono dire non sono state pubblicate perché non rilevanti, perché ripeto, di intercettazioni non rilevanti ne abbiamo lette tantissime. Visto che è una vicenda che si è giocata molto più sulle pagine dei giornali e molto più nell'aula dell'opinione pubblica che non in quella dei tribunali, dove si sta scrivendo solo adesso, ecco, questo emergere delle intercettazioni, questo vedere nero su bianco con così tanti anni di ritardo, mi dà da pensare e mi piacerebbe capire perché. Questo, secondo me, è il punto. Ecco. Giorgio Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Vorrei cambiare un attimo argomento. Volentieri, molto volentieri. Ecco. Vorrei parlare della stagione del Milan, che io ritengo miracolosa, però ho notato che negli ultimi anni il Milan inizia sempre la stagione a novembre, linea di massima, perdendo molti punti all'inizio campionato, per poi recuperare sempre affannosamente alla fine. Sì, Giorgio, c'è una differenza però, che nelle ultime stagioni, prima di questa, il Milan a novembre era praticamente fuori dai giochi. Sì, però c'è la differenza dell'Inter, ad esempio, che fa parte a tutta all'inizio, accumula punti e gestisce il vantaggio durante la stagione. Il Milan invece deve sempre faticare il doppio per recuperare. Cioè, se anche ad esempio quest'anno non si sarebbero persi molti punti ad inizio stagione, forse il campionato sarebbe andato in maniera diversa. In questo punto penso anche di no, perché l'Inter... Non certe partite li ha giocate col contagocce. È un po' difficile dirlo, insomma, c'è chi corre forte all'inizio, chi corre forte in mezzo. È una costante, però la differenza, Giorgio, guardi, sta proprio nel fatto che il Milan comunque quest'anno distacco può essere stato, insomma, variabile, no? Distacco dall'Inter sempre al comando, è stato variabile, però l'Inter, il Milan è sempre comunque rimasto in scia. Mentre nelle ultime stagioni, a novembre, il distacco era veramente abissale, incolmabile, ed era chiaro già prima di Natale che il Milan si disinteressava della corsa scudetto, come peraltro in maniera incomprensibile, assolutamente incomprensibile, è stato per anni dichiarato dalla dirigenza rossonera: ma sì, campionato per noi obiettivo secondario, noi viviamo e respiriamo per la Champions League. Discorso che, in tutta onestà, fosse un tifoso del Milan troverà inaccettabile, perché poi andare a vedere le partite di campionato costa, gli abbonamenti costano, e allora se mi dicono che tanto quella competizione non mi interessa, perché andarci? Questo mi sono sempre chiesto, senza trovare grandi risposte in realtà. Ivan da Cagliari, buongiorno. Oh, buongiorno, io ascoltavo un po' le altre persone che parlavano, si parla aperta e chiusa parentesi veloce, Inter, Juventus, tutta qua passata, adesso vengono pure queste intercettazioni che sono ridicole. In che senso? Ma sì, può mettere Juve, mettere fuori intercettazioni che sono avvenute anni fa, perché... Guardi, io faccio fatica a sentirla, di ridicolo ci trovo poco, onestamente, anzi, forse il contrario. È chiaro che vengono fuori adesso, perché questi sono i giorni cruciali per il processo di Napoli, perché la difesa di Luciano Moggi sta facendo il suo lavoro. Dunque, emergono in questo momento perché è stato ingaggiato un perito incaricato di lavorare su questi nastri, di recuperare queste intercettazioni di cui nessuno ha mai conosciuto pubblicamente l'esistenza, e quindi vengono fuori in questo momento non per come magari qualcuno già sta già sospettando, per inquinare la corsa scudetto. Questo no, poi magari la inquineranno, ma nonostante tutta la dietrologia che si può fare, non è questo il fine, semplicemente perché dal punto di vista della tempistica, in questi giorni, in questo mese di aprile, ci saranno udienze determinanti a Napoli su questa vicenda, e dunque la difesa di Moses sta semplicemente facendo questo lavoro. Alzi il polverone, vedete, tutti erano colpevoli, tutti facevano tutto, magari anche vero che tutti facevano tutto e che tutti parlavano con tutti in maniera assolutamente antisportiva quantomeno, però non è vero che tutti facevano tutto, si tratta di, al di là della polvere che si alza, poi di capire che cosa c'è dentro, no? E magari anche sarà il caso di spiegare perché, ripeto, in una vicenda che si è giocata, come molte vicende italiane purtroppo, nell'aula della pubblica opinione anziché in quelle di giustizia, perché queste intercettazioni sono emerse soltanto ora, perché questo non me lo spiego. Aldo, Alessandria, buonasera. Walter. Buonasera. Io intervengo per mettere un punto su una cosa che non è assolutamente irrilevante. Io sono un tifoso juventino. Sì. Il signor Auricchio, tenente colonnello, adesso sì, non so, sì, sta rispondendo a domande pressanti che fanno gli avvocati di Moggi, alle domande, ma perché le altre intercettazioni? Lui vagamente risponde, a un certo punto le ha chiesto, perché queste intercettazioni e le altre no? No, l'interesse era solo la Juve, questa risposta di Auricchio, tenente colonnello, al processo di Napoli. Mm. Adesso voglio fare un quadro generale, mi permette 30 secondi. Sì, non di più, perché tra 20 devo chiudere la trasmissione, Walter. Velocissimo. Facciamo così, ne parliamo domani, se ha tempo, domani è Pasqua, però io devo chiudere il programma tra 4 secondi esatti, quindi non posso fare altro che salutarla, però se vuole intervenire domani alle 5 sono qui, l'aspetto, sarà il primo della lista. Adesso ci salutiamo, grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Carmelo Lauricella in regia. Naturalmente buona Pasqua a tutti, ma gli auguri ve li rifaccio domani dalle 5 alle 6 e poi domani sera dalle 8 e mezza alle 9 quando vi parlerò anche di basket.